Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il De Re Rustica è il primo trattato di agricoltura del mondo latino. Fu scritto da Columella nel primo secolo d.C. Parliamo di un'opera di 12 libri, quindi una specie di enciclopedia. Ebbene, pochi giorni fa a Roma si è concluso un convegno dell'Enea, forse un po' pretenziosamente, con lo stesso titolo, che ha fatto però il punto, devo dire in modo molto dettagliato, sul rapporto tra agricoltura ed energia. Oggi l'agricoltura si trova davanti a due sfide, ne abbiamo parlato altre volte. Da un lato deve imparare a contribuire alla produzione energetica, dai biocarburanti al biogas, alla biomassa forestale, e questo evitando conflitti estremi, insomma, con le coltivazioni di tipo alimentare. Dall'altro, il sistema agricolo ed agroalimentare deve diventare più efficiente, cioè imparare a produrre e a distribuire i prodotti agricoli consumando meno risorse. Ed è di questo secondo aspetto che ci occupiamo questa sera, e lo facciamo con il contributo di Carlo Alberto Campiotti, che è responsabile del servizio agricoltura dell'unità di efficienza energetica dell'Enea. Buonasera Campiotti. Buonasera Melis. Allora, lei ha presentato una relazione molto dettagliata durante il De Re Rustica, questo convegno dell'Enea. E allora, proviamo ad andare per ordine. Iniziamo da un quadro dei consumi agricoli, proprio qualche numero di base. Quanto consuma l'agricoltura? Dunque, siamo intorno a 20 milioni di TEP. Di questi ne abbiamo circa un 3 che sono consumi diretti. TEP sono tonnellate equivalenti di petrolio. Esatto. Sì, 3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. 3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per quanto riguarda agricoltura, intesa come crescita di piante. Coltivazione delle piante, perfetto. Dopodiché però noi abbiamo l'industria alimentare. L'industria alimentare si porta via tranquillamente altri 16 milioni di TEP, quindi si ha tra consumi diretti e indiretti. Totale del sistema agroalimentare, quindi agricoltura e industria alimentare, siamo intorno ai 20 milioni di TEP. Rispetto ai consumi nazionali quant'è? Intorno al 15-16% dei consumi finali nel 2009. Senta, voi avete identificato poi all'interno, come dire, di tutta la filiera agroalimentare 5 filiere dell'efficienza. Sì. Allora le chiedo proprio di descrivercele, quali sono, quanto pesano nel mix? Lo spreco alimentare, per esempio. Sì. Questa è una delle filiere su cui stiamo lavorando. Cioè proprio roba che viene buttata via. La roba che viene buttata via è stata ottenuta con energia. Praticamente buttiamo tranquillamente intorno ai 50 TEP annualmente. Parliamo soltanto delle ortive, attenzione, quindi pomodori, peperoni. Parliamo di quello che rimane in campo. Un buon 20%, sì. Un altro 20% lo perdiamo poi attraverso la filiera della grande distribuzione, e poi ci sono le famiglie, che a loro volta le famiglie buttano un buon 15%, certo, di quello che resta in frigo e sta lì e dopo un po' viene buttato. Okay. Seconda filiera. Una seconda filiera è quella che noi abbiamo chiamato dei materiali plastici, perché ci riferiamo soprattutto ai materiali plastici che vengono utilizzati per la copertura delle serre. Mm-hmm. Noi in Italia abbiamo 30.000 ettari di serre, siamo tra i paesi, diciamo, che producono di più in serra. Quante tonnellate di plastica sono? Siamo intorno agli 85.000-100.000 tonnellate di plastica. È una cifra enorme. Impressionante, bene, impressionante. Possiamo efficientare questo sistema, sicuramente. Terza filiera. Una terza filiera è quella definita dei sistemi serra. Cioè praticamente le serre, questi 30.000 ettari di serre in Italia, consumano energia, perché sotto serra le piante devono avere un microclima adatto. Vengono riscaldate proprio queste serre in molti casi. Ma soprattutto in Italia, nel sud dell'Italia, dove praticamente abbiamo il 60% di tutte le serre, dobbiamo soprattutto raffreddarle. E raffreddare sicuramente, sì, richiede più energia che non riscaldare. Quarto filone, c'entra e non c'entra con l'agricoltura, mi ha un po' sorpreso trovarlo urbana. Lì. Agricoltura urbana. Parliamo per esempio del verde pubblico, di tutti i parchi che noi abbiamo e che producono una biomassa residuale che, come lei certamente sa, è considerata rifiuto. Sì, questa è una delle stranezze. Non possiamo utilizzarla, dobbiamo trovare una soluzione. E poi abbiamo un'ulteriore soluzione che noi proponiamo, che è quella che definiamo il greenery, cioè coperture vegetali per i nuovi edifici. o coperture vegetali dei giardini che possono andare sui terrazzi. Quinto filone è il filone che noi abbiamo definito della chimica sostenibile, fitosanitari, fertilizzanti. Sicuramente possiamo avere delle riduzioni enormi, possiamo arrivare annualmente a più di 1 milione di TEP. Quindi 1 milione e passa di TEP si possono risparmiare su questo capitolo. Senza. Complessivamente, su tutti i 5 capitoli, quant'è il risparmio che si possiamo potrebbe fare? Possiamo tranquillamente arrivare intorno ai 3 milioni e mezzo di TEP. 3 milioni e mezzo di TEP su, avevamo detto, circa 19 e mezzo su di 19, consumi. Circa 20 milioni di TEP. Quale può essere il meccanismo per incentivare una trasformazione del comparto agroalimentare in questa direzione? Ma per esempio noi stiamo proponendo, ma già da qualche anno, i certificati bianchi, soltanto che i certificati bianchi finora sono stati molto utilizzati dal settore civile, anche dall'industria, un po' meno dall'agricoltura. Ma attualmente, per come sono fatti i certificati bianchi, potrebbero essere utilizzati per il tipo di interventi che servono in questo campo? Certamente, tratta di renderli funzionali a quelle che sono le specificità di un settore come quello dell'agroalimentare. Cioè, bisogna semplificare il modo per accedere a questi certificati bianchi da parte degli agricoltori. Esatto, ma soprattutto dobbiamo anche fare conoscere agli agricoltori che hanno questa opportunità. Dunque Campiotti, noi dobbiamo fermarci qui, ma torniamo per approfondire un po' questi 5 capitoli domani, va bene? Va bene. Anche per questa sera ci dobbiamo fermare, appuntamento domani, buona serata a tutti.